tuoi guerrieri a fatti, fa il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso dimenti tutta. Beate mia dolce vita, tornarti là ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Sei la splendor.